Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge Caro Michele di Natalia Ginzburg. Febbraio 1971. Caro Michele, la sciarpa di cashmere è introvabile. Io però mi sono comperato una sciarpa, credo non di cashmere, e senza strisce azzurre, una semplice sciarpetta bianca. La porto e mi immagino che sia la tua. Mi rendo conto che è un surrogato, ma d'altronde noi tutti viviamo di surrogati. Vado spesso a trovare tua madre, che è molto simpatica, e frequento appunto, come ti è stato riferito, i tuoi familiari. Per il resto, la mia vita è quella che tu conosci, diciamo sempre uguale. Vado al botteghino, ascolto la signora Peroni che si lamenta di vene varicose e di artrite, sfoglio i registri dei conti, discorro con i rari clienti, accompagno Elisabetta a ginnastica e la vado a riprendere. Cammino per il Lungotevere, sto con le mani in tasca appoggiato al ponte e guardo il sole tramontare. Ti faccio molti auguri per il tuo matrimonio e ti ho mandato in regalo un'edizione dei Fleurs du Mal rilegata in marocchino rosso. Osvaldo. Febbraio 1971. Caro Michele, Angelica è qui da me e mi dice che ti sposi. Mi dice che tu le hai detto di dirmelo lentamente in modo da non sconvolgermi. Me l'ha detto invece rapidamente e subito, appena entrata nella stanza. Angelica mi conosce meglio di te. Sa che io sono così perennemente sconvolta che niente mi sconvolge più. Ti sembrerà strano, ma io non mi stupisco e non mi spavento più di niente, essendo in uno stato perenne di spavento e stupore. Da 10 giorni sono a letto malata, per questo non ti ho più scritto. Ho chiamato il dottor Bovo, quel medico di tuo padre che abita via San Sebastianello al 4° piano. Ho una pleurite. Mi sembra immensamente strano scrivere «ho una pleurite», perché non ho mai avuto niente nella mia vita e mi sono sempre considerata fortissima. Ad ammalarsi erano sempre gli altri. Angelica mi ha fatto leggere la tua lettera. Alcune frasi di questa lettera mi hanno stupito, benché io sia, come ti ho detto, ormai essenzialmente immune dallo stupore. Io amo l'intelligenza, io amo i bambini. A dirti il vero, ignoravo che tu amassi l'intelligenza e i bambini. Queste frasi però mi hanno lasciato un'impressione fondamentalmente positiva. Come se tu finalmente cercassi di raggiungere la chiarezza e la risolutezza. Come se tu finalmente cercassi di fare delle scelte definitive. Mi rallegro di rivederti a Pasqua e di poter conoscere tua moglie e quei suoi bambini. La prospettiva di avere dei bambini in casa mi affatica al solo pensarci, ma siccome ti rivedrò, li accoglierò tutti con grande gioia. Il fatto che questa donna che tu sposi abbia 30 anni... non mi sembra un fatto negativo. Tu evidentemente hai bisogno di avere vicino una donna più vecchia di te. Hai bisogno di affetto materno. Questo perché quando eri piccolo tuo padre ti ha tolto a me. Dio lo perdoni, se esiste Dio, cosa che forse non è del tutto da escludere. Penso certe volte quanto poco insieme siamo stati, tu e io. E quanto male ci conosciamo, quanto superficialmente tu mi giudichi e io ti giudico. Io ti trovo tanto balordo, ma non lo so se veramente sei balordo o invece oscuramente savio. Sembra che finalmente mi mettano il telefono, grazie a Ada, che è andata di persona alla società dei telefoni, appena saputo che io stavo male. Dimenticavo di dirti una cosa molto importante. Osvaldo dice che Ada comprerebbe volentieri la tua torre. Sarebbe una gran cosa perché tu ti libereresti così di un impiccio. anche se in verità tu alla torre non ci pensi mai. Viola e Elio volevano comperartela loro, ma sono andati a vederla e ne sono rimasti delle delusi. Dicono che arrivarci è una gran sudata su per quel ripido sentiero. E poi questa torre ha l'aria di cascare al solo toccarla. Quell'architetto ancora non ha fatto nessun lavoro. Tutto quello che ha fatto è stato andare là con un paio di muratori, smurare un lavandino e sfondare una parete. Il lavandino ora giace lì di fuori, in mezzo alle ortiche. Le maioliche sono state scelte e comperate, ma dimorano ancora presso l'impresa, la quale però protesta. Secondo Ada, quell'architetto è un vero imbecille. Lei è andata a vedere la torre con un suo architetto. Vuole fare una piscina, una scaletta che scende giù al mare, una strada. Tuo padre, questa torre si è saputo che l'aveva pagata non 1 milione, come diceva, ma 10. Ada te ne darebbe 15. Dovresti decidere. Penso che ti occorreranno camicie e calze e forse un vestito scuro. Io ora non me ne posso occupare, essendo malata e Angelica non ha tempo. Viola è piuttosto giù di corda, depressa, forse con un leggero esaurimento nervoso. Siamo tutte mal combinate. Matilde ha perso completamente la testa con polente e veleno e va ogni giorno dall'editore con la rosa a leggere le bozze, a guardare la copertina e a rompergli l'anima. Dall'editore con la rosa lavora adesso la tua amica Mara Martorelli. Matilde l'ha vista lì, dice vestita di un incredibile kimono giapponese con immensi fiori. Chiudo questa lettera perché Angelica sta aspettando e la imposterà. Ti abbraccio e ti auguro felicità, ammesso che la felicità esista, cosa che forse non è del tutto da escludere, anche se raramente ne vediamo traccia nel mondo che ci è stato offerto. Tua madre. Febbraio 1971. Caro Michele, mi sono arrivate le 12 tutine di spugna. Potevi risparmiarti di mandarmele, perché sono parecchio consumate, con gli automatici tutti strappati e poi dure e rigide come sardine. Di alla tua Aileen, come si chiama, che io non sono una pezzente, e dille che il mio bambino ha delle meravigliose tutine nuove e morbide, di una deliziosa spugna a fiorellini rose e celesti. Ma ugualmente ringrazio. Ti annuncio che mi sono trasferita presso il Pellicano. Sono arrivata qui 2 sere fa con armi e bagagli perché quella mia amica mi ha detto di andarmene da Via dei Prefetti. Io le ho raccontato che avevo il Pellicano e lei allora ha detto che di Via dei Prefetti non ne avevo più bisogno e che me ne andassi via subito. Ha l'idea di fare di quell'appartamento una specie di club o galleria di disegni o qualcosa del genere, non più una boutique. Comunque mi ha detto che aveva bisogno di soldi, molti soldi, e io me ne dovevo andare senza fare tante storie. Io certo avrei potuto insistere e rimanere ancora, ma invece mi è venuta rabbia. In 20 minuti ho fatto sulla mia roba, ho preso il bambino, ho caricato tutto sulla carrozzina e me ne sono venuta in casa di Fabio. Ha un attico in piazza Campitelli, il Pellicano. È un meraviglioso attico e non c'è il più lontano rapporto con Via dei Prefetti. Lui era piuttosto smarrito quando mi ha visto arrivare di sera, ma ha mandato subito la sua donna a comprare il latte per il bambino e un pollo per me al Piccione, quella rosticceria che è in Largo Argentina. Il bambino ora prende il latte della centrale, non so se te l'ho già detto, non più il latte in polvere. Da Fabio c'ero già stata e mi piaceva molto questo attico. L'unica cosa che non mi piace è la sua donna di servizio, una 50enne grande, grossa, dura, niente gentile, che mi guarda severamente e non mi risponde quando le parlo. Il bambino lo guarda come se ci fosse lì uno straccetto. Ho detto a Fabio che si potrebbe licenziarla. Lui nicchia e dice che è una donna preziosa. Non ci vado più in ufficio. Me ne sto qui a godere questo attico, a prendere il sole sulla terrazza. Il bambino lo metto sulla terrazza, all'ombra di un ombrellone, e stiamo bene come non ti dico. Non lo porto più il bambino da quella signora là, perché lo trascurava, non lo cambiava e sono sicura che lo lasciava lì a piangere. Fabio, quando ritorna dall'ufficio, si mette sulla terrazza anche lui. Ci teniamo la mano e ci facciamo portare del sugo di pomodoro da Belinda, che è questa cinquantenne in grembiule rosa. Fabio era in principio un po' sgomento, ma adesso quando gli chiedo se è felice, arriccia il suo grande naso e dice di sì. Ada è stata liquidata. Lui non la vede più. Io ho telefonato a Osvaldo per sapere come l'aveva presa Ada. Ha detto che l'ha presa male, ma pronosticando che questa nostra unione avrà vita breve. Io credo invece che il pellicano lo sposerò. Avrò ancora degli altri bambini, perché la cosa che mi piace di più al mondo è avere dei bambini. Certo, per avere dei bambini bisogna avere dei soldi, se no è tremendo. Ma lui, il pellicano, ho capito che è miliardario. Io non è che lo sposo per i soldi. Lo sposo perché lo amo, però sono contenta che abbia tutti quei soldi. Lo invidio perché è ricco, perché è intelligente e certe volte mi capita perfino di invidiargli quel grandissimo naso. Ti faccio molte congratulazioni per il tuo matrimonio e tu fammene anche tu per il mio, perché vedrai che mi sposo quasi più presto di te. Per il tuo matrimonio ti regalo un quadro di Maffei. Non te lo spedisco perché non è una cosa semplice spedire un quadro di Maffei. È appeso qui dal pellicano nella nostra stanza da letto e gli ho chiesto al pellicano se potevo regalartelo e lui ha detto di sì. Mara. Leeds, 18 marzo 1971. Cara Angelica, ho avuto i documenti e ti ringrazio. Mi sono sposato mercoledì. Ho saputo che la mamma è malata e me ne dispiace. Spero che non sia niente di molto serio. Eileen e io abbiamo trovato una piccola casa a due piani in questa Nelson Road, che è una strada sterminata di casette tutte identiche. Abbiamo 2 metri di giardino che io coltiverò a rose. Ringrazio la mamma per i denari, le camicie e il vestito scuro che non ho messo il giorno del matrimonio, né mai metterò. L'ho appeso nell'armadio con naftalina. Eileen va all'università il mattino presto e accompagna a scuola i bambini. Io esco un poco più tardi, metto la casa in ordine, sciacquo i piatti della colazione e passo il rullo sulla moquette. Tutto questo però solo da 2 giorni. Comunque, tutto bene. Il giorno del matrimonio abbiamo fatto un pranzo con i genitori di Eileen al ristorante. Questi genitori di Eileen mi amano da morire. Ho saputo che Viola e Elio volevano venire al mio matrimonio. L'ho saputo da quel solito parente della signora Peroni che mi sono visto capitare alla pensione dove stavo fino a ieri l'altro. Per fortuna non sono venuti. Per fortuna non è venuto nessuno di voi. Io non è che non ho voglia di rivedervi. Vi rivedrei tutti molto volentieri. Ma per il mio matrimonio abbiamo fatto le cose così in fretta e senza darci peso che Viola e Elio e anche voi, se foste venuti, sareste forse rimasti delusi. Di a Oreste che mia moglie è iscritta al Partito Comunista. È uno dei pochissimi comunisti che ci sono qui. Io continuo a non essere comunista. Continuo a non essere niente. E ho perso i contatti con quegli amici che avevo a Roma e non so più niente di loro. Pensare che sono partito anche per ragioni politiche. Non solo per quello, ma anche. Ma non mi sarebbe facile dire perché sono partito. Comunque, ora non mi occupo di politica, se ne occupa mia moglie e questo mi basta. Mi servirebbe un libro, La critica della ragion pura di Kant. Vedi se puoi andarlo a cercare nel mio scantinato, ammesso che lo scantinato ancora esista e che possa ancora chiamarsi mio. Ti abbraccio, Michele.